Cari fratelli e sorelle, dedichiamo l'incontro di oggi al ricordo di un altro membro molto importante del Collegio Apostolico, Giovanni, figlio di Zebedeo e fratello di Giacomo. Il suo nome, tipicamente ebraico, significa «Il Signore ha fatto grazia». Stava riassettando le reti sulla sponda del lago di Tiberiadi quando Gesù lo chiamò insieme con il fratello. Giovanni fa sempre parte del gruppo ristretto che Gesù prende con sé in determinate occasioni. E insieme a Pietro e a Giacomo, quando Gesù a Cafarnao entra in casa di Pietro per guarirgli la suocera, con gli altri due segue il maestro nella casa dell'archisinagogo Gairo, la cui figlia sarà richiamata in vita, lo segue quando sale sul monte per essere trasfigurato, e accanto sul Monte degli Olivi, quando davanti all'imponenza del Tempio di Gerusalemme pronuncia il discorso sulla fine della città e del mondo, e finalmente gli è vicino quando nell'orto del Getsemani si ritira in disparte per pregare il Padre prima della Passione. Poco prima della Pasqua, quando Gesù sceglie due discepoli per mandarli a preparare la sala per la cena, a lui ed a Pietro affida tale compito. Questa sua posizione di spicco nel gruppo dei dodici rende in qualche modo comprensibile l'iniziativa presa un giorno dalla madre della quale abbiamo adesso sentito il brano evangelico. La madre si avvicinò a Gesù per chiedergli che i due figli, Giovanni appunto e Giacomo, potessero sedere uno alla sua destra e uno sulla sinistra nel regno di Dio. Come abbiamo sentito, Gesù rispose facendo a sua volta una domanda. Chiese se essi fossero disposti a bere il calice che egli stesso stava per bere. L'intenzione che stava dietro a quelle parole era di aprire gli occhi dei due discepoli, di introdurli alla conoscenza del mistero della sua persona e di adombrare loro la futura chiamata ad esserli testimoni fino alla prova suprema del sangue. All'interno della Chiesa di Gerusalemme, Giovanni occupò un posto di rilievo nella condizione del primo raggruppamento di cristiani, per esempio insieme con Pietro, davanti al Sinedrio che li sta processando, confessa: «Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato». Proprio questa franchezza nel confessare la fede resta un esempio e un monito per tutti noi ad essere sempre pronti a dichiarare con decisione la nostra incrollabile adesione a Cristo, anteponendo la fede a ogni calcolo o umano interesse. Secondo la tradizione, Giovanni è il discepolo prediletto che si trova ai piedi della croce insieme alla madre di Gesù ed è infine testimone sia della tomba vuota che della stessa presenza del risorto. È conosciuto che questa identificazione è oggi discussa dagli studiosi, alcuni dei quali vedono in lui semplicemente il prototipo del discepolo di Gesù. Lasciamo agli esegeti di dirimere la questione e ci contentiamo qui di raccogliere la lezione essenziale per la nostra vita. Il Signore desidera fare di ciascuno di noi un discepolo che vive una personale amicizia con Lui. E per realizzare questo non basta ascoltarlo esteriormente, bisogna anche vivere con Lui e come Lui. Negli apocrifi Atti di Giovani l'Apostolo viene presentato come comunicatore della fede nell'incontro, così si dice, con anime capaci di sperare e di essere salvate. Tutto è mosso dal paradossale intento di far vedere l'invisibile, e ci chiediamo se siamo noi anime capaci di sperare e di essere salvate. Infatti, dalla Chiesa orientale Giovanni è chiamato semplicemente il teologo, cioè colui che è capace di parlare in termini accessibili delle cose divine, svelando un arcano accesso a Dio mediante l'adesione a Gesù. Nella iconografia bizantina Giovanni viene spesso raffigurato molto anziano. La tradizione ci dice che è morto molto anziano sotto l'imperatore Traiano, e va raffigurato in atto di intensa contemplazione, quasi nell'atteggiamento di chi invita al silenzio. In effetti, senza adeguato raccoglimento non è possibile avvicinarsi al mistero di Dio e alla sua rivelazione. Ciò spiega perché anni fa il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Atenagora, colui che il Papa Paolo VI abbracciò in un memorabile incontro, ebbe ad affermare: Giovanni è all'origine della nostra più alta spiritualità. Come lui, i silenziosi conoscono quel misterioso scambio dei cuori, invocano la presenza di Giovanni e il loro cuore si infiamma. Il Signore ci aiuti a metterci alla scuola di Giovanni per imparare la grande lezione dell'amore, così da sentirci amati da Cristo fino alla fine e spendere la nostra vita per Lui. Grazie.